Questo che leggiamo stasera è un estratto dal dizionario autocritico della militanza. Questa cosa strana che è militanza sociale, politica, che facciamo tutti i giorni nelle strade, nei quartieri, nelle università, nei territori, nei posti di lavoro, la solita cosa che si dice. Abbiamo provato a farlo in lettere dalla A alla Z, dalla A di anarchici alla Z di zin, parlando di noi e di quello che siamo, cercando di prenderci anche un pochetto in giro. Questa sera non andremo in ordine alfabetico, ne leggeremo alcuni pezzetti. Zin come fanzine, eh? No, ci tenevo. Certo. Lettera C. Comunia. Oh, il compagno Peppe si è comprato casa, eh? Eh già. Ma noi l'abbiamo capito, Peppi, tranquillo. Noi l'abbiamo capito il tuo intento. Tu sai cosa significano comunione e solidarietà. Che vuoi dire? Mica mo credi alla proprietà privata. Mica sei diventato proprietario. No, però tu ti sistemi. Poi noi ti raggiungiamo. Io, Salvatore, Pasquale, Cinzia, Maruccia. Per qualche giorno, una, due settimane. Come una, due settimane, oh? Stai tranquillo, Peppi, ognuno fa qualcosa. Chi cucina, chi pulisce il cesso, chi fa la spesa, chi butta la monnezza. Poi, Peppi, dovremmo pensare a delle attività, eh? Scusa, quali attività? Quelle che abbiamo sempre fatto, Peppi. Io l'ho vista a casa tua, c'ha sta facciata tutta bianca, così bella. A Cinzia, ad esempio, pensavo, le facciamo fare un murale bello Riot. Che ne dice, Peppi? Uno spettacolo. Beh, io veramente... E poi sul terrazzo, Peppi, un laboratorio di giocoleria. 3 volte a settimana, che ne dici? Scusa, ma io veramente... E mo che c'è, Peppi? Te sei scordato che diceva a buon'anima di Thomas Münzer? Omnia sunt communia. Sì, vabbè, però è casa mia, eh. È casa tua, è casa nostra sarà casa tua. Vado a chiamare un attimo Salvatore, Pasquale, Mariuccia, Peppino... Lettera N, come no. La vuoi un po' d'acqua? No. Un caffè? No. Stasera andiamo al cinema? No. Ma tu mi ami? No. Secondo te io ti amo? Ma anche no. Ma ti piace quello che scrivo? No. Preferiresti essere cremata? No. Allora vuoi essere seppellita? No. Oh, ma non sai dire altro? Sì, sì. No taf, no muos, no ponte. P. Palestina. Va bene, sì. Metti lo zatar pure sulla porchetta. Va bene la kefia, le foto con la dita a V, pure al matrimonio di tua cugina. Sono d'accordo, la dabka mette più energia dello zumba. Sì, alla fine segui giusto un paio di presentazioni di libri alla settimana, tagli tutti gli amici ogni volta che metti una notizia, la tale notizia in un villaggio, in provincia di Tulkarem. Invii giusto un po' di mail per firmare le petizioni su change.org. contro la pulizia etnica dei beduini nel Naqab. Diventi viola ogni volta che senti parlare di quella merda sionista di Harry De Luca. È vero, esistono tante giustizie nel mondo, ma quella della Palestina è troppo evidente, paradigmatica. Poi alla fine, non è che uno può seguire pure quello che avviene in Sud Sudan. Però scusa, quando ti dico che il decreto Lupi, articolo 5, toglie l'acqua a tutti quelli che vivono nelle occupazioni, toglie il diritto di registrarsi all'anagrafe ai bambini nati in occupazione, non te ne uscire co. E vabbè, però alla fine sono abusivi. Lettera T. Tutte e tutti. Ah, è stata proprio una bella serata. Grazie a tutte. Squa. Non si è capita la vocale finale? Beh, era una chiocciola. Sì, ma quando parli mica ti puoi mangiare una vocale perché te stai a pensare a una chiocciola. Sì, vabbè, ho capito. Grazie a tutti. E mo che cazzo era Pasqua? L'asterisco va de moda. Oh Pasqua, ma che sei imbecille? Vabbè. Grazie a tutti. Pasqua, non si capisce. Era una X, più alternativo. Pasqua, messa a piove il culo, beh? Ma scusa, secondo te che cazzo devo fare? Una formula matematica? Pasqua, tu stai esaurito. Ma che cazzo ti costa di grazie a tutte e a tutti? Stai a parlare davanti alla gente, Cristo. Mica stai a fare un post su Facebook. Sì, vabbè, così ogni frase diventa un teorema. Un microfono che va. Un microfono che va, un maschile dell'A, un femminile di qua. Per fare un ringraziamento famo mattina. Pasqua, tu non stai bene, hai rotto il cazzo per mesi con sta storia di tutte e tutti e mo te stai incartato e brutto. Mica è difficile, sa. Au, ma mo avete rotto proprio i coglioni, eh. Tutti e tutte. Lettera O, come occupazione, quindi siamo nel posto giusto. Tutto comincia nella tua cameretta, hai 14 anni. Che Guevara ti guarda con aria severa da sopra il letto. Accanto a lui c'è Malcolm X che ti fa sentire una merda. Devi fare qualcosa. Ti barrichi, la zona è interdetta agli adulti. Non mi avrete mai come volete voi. Loro non riconoscono la tua sofferenza. Hai 14 anni. Hai innescato il detonatore. Non tornerai mai più indietro. U come unità. A compà, qua le contraddizioni del capitale stanno uscendo fuori. Il sistema sta implodendo dall'interno. Noi come classe, dove Magip rende sempre più evidente la nostra azione di contrasto sui posti di lavoro, tra i disoccupati, dentro i quartieri. Ma per far questo ci vuole unità. La classe deve da essere unita. Ora che la bestia del capitale sta a soffrire e si contorce, proprio per questo si fa sempre più feroce. È un attimo che le forze della repressione ci disperdono. Quando attaccano uno è come se attaccano tutti. Per questo alla manifestazione nazionale faremo lo spezzone dei comitati unitari autonomi popolari. Dovemo via alla testa del corteo. Dovemo da essere uniti. Se qualcuno si mette in mezzo, specialmente di quei stronzi dei movimenti territoriali delle basi autonomi, gli dovevo menà uniti.